gli speciali di Radio 24. Frates carissimi, non solo un proprio teis canonizzaciones, a tuo consistorium vos convocavi, sed etiam ad urbis decisione mani e momenti per ecclesia e vita comunicem. Conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad condizionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monospitrinum eque administrandum. Ecco, sono passate da poco le 11:30 quando Benedetto XVI, lo state ascoltando, concluso il concistoro per la canonizzazione di alcuni beati, si siede, prende il microfono e legge in latino un discorso trasmesso in tempo reale nella sala stampa della Santa Sede. La voce l'avete sentito trema, Ratzinger sembra davvero particolarmente sofferente. Lascio per l'età avanzata e per il bene della Chiesa, dice, vivrò una vita di preghiera. La sorpresa prima è dei cardinali presenti al concistoro, poi rimbalza sugli organi di stampa questa mattina. Anche noi di Radio 24 siamo un po', come dire, saltati sulla sedia. Una notizia infatti questa di cui non si era parlato nei giorni scorsi, che non era stata preceduta da voci come ormai siamo abituati, almeno non fra quelli che non sono i più stretti addetti ai lavori. Allora è di questo che parliamo oggi nello speciale di Radio 24, che ha rubato il microfono a Sebastiano Barisoni e a Focus Economia per mezz'ora della sua puntata. Naturalmente lo ritroveremo puntuale domani alle 17. Il 28 febbraio Ratzinger lascerà dunque il pontificato, precisamente alle ore 20, hanno fatto sapere. Prima di Pasqua dovremmo avere il nuovo Papa. Primo collegamento con la nostra esperta di questioni vaticane, la nostra Katia Caramelli, che già da questa mattina sta seguendo queste ore davvero così importanti e anche difficili da interpretare. Buona serata, Katia. Sì, buon pomeriggio Piera, buon pomeriggio a tutti. Allora Katia, abbiamo sentito le parole in latino, o almeno un brano delle parole in latino pronunciate dal Papa e poi l'intervento di Padre Lombardi. Dunque, che cosa c'è dietro questa decisione? Intanto ha sorpreso anche te, ha sorpreso anche gli addetti ai lavori, come dicevamo? Sì, è una decisione che sicuramente è giunta come un fulmine a ciel sereno e tuttavia è una decisione che sarebbe stata invece maturata dal Papa nel tempo, in particolare l'avrebbe presa dopo il viaggio a Cuba e Messico, almeno secondo quanto ha rivelato poco fa il direttore dell'Osservatore Romano, stretto collaboratore del Papa, Vian. Ratzinger tuttavia aveva parlato in più di un'occasione della possibilità di dimissioni, del dovere anzi che un Papa ha di dimettersi se intervengono determinate condizioni. Quindi diciamo che nell'immediatezza è apparsa come una scelta sicuramente in attesa, un fulmine a ciel sereno, ma non era un qualcosa di impossibile in riferimento a quella che è la storia personale di Benedetto XVI. E d'altro canto anche il codice di diritto canonico lo prevede, lo ha ricordato anche il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, lo prevede all'articolo 332, un papa può dimettersi, anzi più precisamente può rinunciare se sussistono determinate condizioni. Anche se non succedeva dai tempi di Celestino V? Sì, guarda Piera, casi precedenti ce ne sono stati nella storia, l'ultimo in particolare è quello di Gregorio XII nel 1415, però parliamo di un'epoca in cui c'era stato lo scisma d'Occidente o il caso ancora più celebre di Celestino V raccontato anche da Dante, ma siamo naturalmente in un contesto, in una situazione completamente diversa da quella che può essere la storia recente del pontificato. Wojtyła, che è il predecessore di Benedetto XVI, ne aveva parlato più volte, aveva anche lasciato questa volontà ad una lettera e tuttavia Wojtyła poi alla fine aveva concluso di non volersi dimettere perché diceva Gesù non è sceso dalla croce e quindi neanche il successore, cioè il vicario di Cristo in terra, il successore di Pietro, ossia il Papa, non deve scendere dalla croce ed è per questo che ora la decisione di Benedetto XVI suona ancora più, Certo. Potremmo dire, rivoluzionaria. Certo, se non l'ha fatto Wojtyła, che insomma negli ultimi tempi sappiamo, abbiamo seguito la sua malattia, malattia che si andava mano a mano aggravando, se non l'ha fatto lui sembra strano adesso che lo faccia Ratzinger, che sembra apparentemente ancora in discreta forma. Su questo sentiamo, proprio sulle sue condizioni di salute, sentiamo la voce di padre Lombardi. Sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Non risulta nessuna malattia in corso che influisca, diciamo, su questo tipo di decisioni. E lui dice molto chiaramente, direi con la sua straordinaria onestà, che negli ultimi mesi è diminuito il vigore in lui del corpo e dell'anima, e così, e questo lo ha portato a, diciamo, a ritenere di non essere più adeguato a svolgere il suo ministero. È diminuito il vigore nel corpo e nell'anima, dice padre Lombardi. Del resto il fratello del Papa Georg Ratzinger era già al corrente, ha fatto sapere da mesi dei piani di dimissioni di Benedetto XVI, lo ha detto alla Welt Online, sottolineando che ovviamente l'età ha pesato su questa decisione. Il medico peraltro aveva consigliato al pontefice, che lo ricordava, siamo a 85 anni, di non compiere più viaggi oltreoceano. Anche camminare era diventata una cosa sempre più difficile. Mio fratello, dice ancora Georg, si augura più riposo in vecchiaia. Dunque le sue condizioni si erano aggravate, Katia? Le condizioni di salute sicuramente si erano aggravate, non sono sicuramente precipitate. Lo stato di salute di Benedetto XVI non è mai stato particolarmente buono, anche perché lui è arrivato al soglio pontificio già anziano. A questo appunto aggiungiamo l'età poi nel corso del pontificato che è andata avanti, ma soprattutto io credo che da parte sua ci sia stato un gesto di responsabilità, cioè lui si è reso conto che fisicamente e anche psicologicamente non riusciva più a gestire come avrebbe voluto un compito così gravoso. Un compito così gravoso soprattutto in questo momento. Esattamente, anche perché il suo pontificato è stato segnato, non dimentichiamolo, da una serie di difficoltà, cioè da una serie di passaggi di nodi molto complessi, a partire dallo scandalo pedofilia, al rapporto con i seguaci di Lefebvre e poi non ultimo il Batilix. E quindi una situazione anche di lotte di potere interne che a un certo punto hanno fatto prendere questa decisione al Papa, ma non come segno di debolezza a mio avviso, ma come segno di coraggio e anche come una mano tesa al futuro, perché da certo. Oggi in poi la parola ci sarà un precedente. Ci sarà un precedente, infatti, segnerà anche il futuro dei prossimi papi. E la parola coraggio è una parola che viene citata da molti commentatori oggi. Grazie alla nostra Katia Caramelli, che naturalmente in questi giorni cercherà di spiegarci che cosa succede oltre Tevere. Noi ci fermiamo per qualche istante, Strade in diretta, poi torniamo insieme per lo speciale di Radio 24 dedicato a questa decisione del Papa. Strade in diretta. La neve a nord continua a condizionare gli spostamenti, in queste ore sono in corso le nevicate più abbondanti, traffico comunque abbastanza regolare anche per lo stop ai camion in vigore in tutto il nord Italia e tra Toscana, Marche e Umbria. Lungo l'autosole per i controlli e per il filtraggio dei mezzi verso nord ci sono code di 1 chilometro all'altezza di Firenze Nord, per lo stesso motivo 2 chilometri di coda all'altezza di Bologna a Casalecchio sulla carreggiata sud. Raccomandiamo di mettersi in auto solo se strettamente necessario, sono sempre fortemente sconsigliati i viaggi da sud verso nord. Nevica anche sull'Appennino centrale, ci sono piogge a tratti intense sul versante tirrenico tra Toscana e Lazio. Sul resto dei percorsi traffico della sera torna alle città, da segnalare poi dei rallentamenti per un incidente sul tratto campano della 3 tra Nocera Nord e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. Le acaba de confirmar esta mañana en un acto donde se canonizaban a un grupo de mártires italianos de la Iglesia. Es sin duda una notición, una noticia que sorprende a más de medio mundo. el Papa Ratzinger va a renunciar en los próximos días, y esto, como es lógico, es ya portada en prácticamente toda la prensa. Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa 16. Benedikt uluslararası topluma Suriye'deki katliama son vermeleri çağrısı yaptı. Hello, I'm Darina Abugaida in Doha with your stories making headlines on Al Jazeera. Today he has worked tirelessly to strengthen Britain's relations with the Holy See. His visit to Britain in 2010 is remembered with great respect and affection. He will be missed as a spiritual leader too. Ecco, la notizia delle dimissioni del Papa naturalmente è rimbalzata su tutte le TV straniere. Non sono mancate anche molte dichiarazioni dei capi di Stato e di governo straniero, come sentiremo fra pochissimo. Prima però le reazioni italiane, che naturalmente non sono mancate. Allora ci colleghiamo con Roma e con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buon pomeriggio Piera, sono tutti all'insegna del rispetto per la scelta del Santo Padre, i commenti dei vertici, delle istituzioni e dei leader politici. Partiamo allora dal Presidente della Repubblica Napolitano, che tra l'altro rivela: nel nostro ultimo colloquio Benedetto XVI traspariva come fosse provato e consapevole di una fatica difficilmente sostenibile. Il Capo dello Stato parla quindi di un gesto, quello del Papa, di straordinario coraggio, ma ascoltiamo questo passaggio. Di straordinario coraggio e di straordinario senso di responsabilità, perché anche, diciamo, il tenere sulle proprie spalle un mandato così straordinariamente impegnativo come quello del Pontefice della Chiesa Cattolica deve fare i conti anche con il prolungarsi della vita, e con il prolungarsi della vita non sempre in condizioni ugualmente sostenibili. Queste dunque le parole del Capo dello Stato. Il Presidente del Senato Schifani parla di decisione da rispettare cui inchinarsi, una scelta che scuote le coscienze, la definisce il Presidente della Camera Fini. Quindi il Premier uscente Monti: ho profondo rispetto per la decisione del Papa, sono certo che essa è stata ispirata dalla volontà di servire la Chiesa fino in fondo. Bersani, PD, definisce il gesto del Papa di assoluta grandezza, una scelta che riforma il futuro della Chiesa. Il commento poi di Berlusconi: sono ammirato di fronte ad un gesto di grande responsabilità che risponde a una finalità nobile e alta, dice il Cavaliere. Commento infine, Piera, che non passa sotto silenzio, quello di Grillo, che dice: spero che il prossimo Papa sia nero, come è successo per il Presidente degli Stati Uniti. Certo, grazie a Vincenzo. Torna questa vicenda del Papa nero. Ma dicevamo, queste dunque le reazioni del mondo politico italiano, moltissime anche quelle invece sul piano internazionale. Allora ce le racconta, qui accanto a me c'è Sergio Nava. Buonasera Sergio. Sì, buonasera. Partiamo dalle reazioni, ma poi andremo anche sulle edizioni online delle principali testate. Reazioni internazionali che sono diciamo contrassegnate da una parola, soprattutto rispetto. C'è molto c'è questo termine ricorrente, il rispetto verso la decisione che, dice il presidente europeo Herman Van Rompuy, non è in linea con la tradizione. Il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, il Papa ha dato che è tedesco Martin Schulz, ricordiamolo, il Papa ha dato speranza alla sua gente, anche lui ha espresso rispetto, e in Germania Angela Merkel, alla cancelliera, ha detto: una decisione da comprendere, si vive più a lungo, in un'epoca in cui si vive sempre più a lungo, molte persone potranno comprendere la scelta di Papa Ratzinger. Il presidente tedesco Joachim Gauck ha augurato a Ratzinger un tramonto benedetto, mentre il presidente francese François Hollande ha definito assolutamente rispettabile la decisione di Ratzinger. David Cameron, premier inglese: il Papa ha lavorato per rafforzare i legami con la Gran Bretagna. E lo speaker della Camera americana, il cattolico John Boehner: decisione di umiltà e amore per la Chiesa. Infine la Spagna, con il governo iberico, che ringrazia il Papa per le tre visite, e anche in questo caso assoluto rispetto per questa decisione. Dicevamo delle principali testate, partiamo dalla Germania, paese di origine di Benedetto XVI. Benedetto XVI vuole andare in monastero, titola la Süddeutsche Zeitung, il principale quotidiano bavarese. Ancora una volta torna la parola rispetto Josef Ratzinger. Ci sono poi già speculazioni sulla Süddeutsche, su cosa succederà, cosa farà il Papa, mentre nel piccolo villaggio di Marktl am Inn c'è appunto una grandissima sorpresa. Il villaggio di origine di Papa Ratzinger viene descritto come enorme, come assolutamente sorpreso dalla decisione. La Bild Zeitung, principale quotidiano tedesco, Rücktritt, titola quindi dimissioni, passo indietro anzi, il nostro Papa va in monastero, questo è il titolo della Bild. Die Welt, quotidiano invece del nord della Germania, Fulmina ciel sereno, il Papa si ritira e anche già la, Die Welt spiega cosa succederà, come verrà scelto poi il successore. Sorpresa storica la mattina presto, titola invece il sito della ARD, principale canale pubblico tedesco, e c'è anche un titolo, un Papa che è difficile da comprendere, questo sempre sul sito della ARD. BBC dice, e andiamo quindi sulla principale testata internazionale, BBC News, il Pope Benedict XVI in shock resignation, quindi una dimissione shock, dice la BBC. E passando alla Spagna, Spagna emerge molto in tratto anche cattolico del paese, perché occupa la notizia assolutamente tutte le, i titoli principali dei quotidiani online, il Paese, il Papa rinuncia, 118 cardinali, titola il Paese, decideranno a marzo il successore. E c'è il commento di Miguel Mora, corrispondente del Paese da Roma, che dice gli ultra vincono la partita, che sia il primo caso di rinuncia in 600 anni dice molto, dice, scrive Miguel Mora, sul livello morale con il quale il Papa ha convissuto. C'è anche un titolo sui papabili, su chi insomma potrebbe prendere il posto di Benedetto XVI. Il Mundo, altro principale quotidiano spagnolo, titola rinuncia storica, e Il Mundo ha fatto anche un'edizione speciale online, un'edizione speciale del giornale Il Papa che si fece uomo. Questa è l'edizione extra del Mondo. ABC, quotidiano cattolico, titola Benedetto XVI rinuncerà il 28 di febbraio e i vescovi spagnoli si sentono orfani. Velocissimamente, in Francia, la Francia, bisogna dire, è la più critica, se vogliamo, perché sia Le Figaro che Le Monde titola un pontificato segnato dalle polemiche e da crisi a ripetizioni. C'è una lettura molto più critica sui giornali francesi. La Francia, ricordiamo, uno stato anche con un approccio molto più laico alle questioni religiose. Il New York Times apre con la notizia: Papa Benedetto XVI annuncia le dimissioni. La CNN dice: troppo stanco per andare avanti, il Papa si dimette. E chiudiamo con El Clarín, quotidiano, il principale quotidiano argentino: rinuncia il Papa, dice che non tiene forze, e fa risaltare anche come si tratti di un gesto storico e che nella lista dei possibili successori c'è anche un argentino. Grazie al nostro Sergio Nava per questo panorama davvero molto ben molto completo sulla stampa internazionale, sulle reazioni dal mondo straniero. Noi invece torniamo in Italia, perché siamo collegati con il Vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Buonasera Carlo. Buonasera a voi, buonasera. Autore peraltro delle Mani sul Vaticano, edito da Rizzoli, mi fa piacere ricordarlo. Allora Carlo, tu ci credi alle ragioni solo di salute di queste dimissioni? Ma sì, ma perché non sono questioni di salute, come possiamo pensare, cioè che c'è un male degenerativo, come ha detto Lombardi, che lo uccide a breve. Questo non risulta anche a me nelle mie, diciamo così, fonti. Non c'è nessun aggravamento delle sue condizioni di salute, insomma. Un uomo di 86 anni, abbondanti, cardiopatico, diabetico, debole. Che quindi non può più viaggiare all'estero, insomma. Ma viaggiare è sempre anche fatto poco, ma il tema qual è? È che le sue condizioni di salute lo possono portare a vivere tranquillamente per altri 2-3 anni o quel che è, o anche di più. Quello che è invece il tema, appunto, è che non ha forza fisica, e probabilmente la tenuta. Diciamo, lo ha detto lui stesso, no? Nelle sue parole stesso, stamattina. Cioè, voglio dire, le modalità di queste dimissioni in qualche modo segnalano anche uno stile, no? Vuole dire, in qualche modo, cioè, esco di scena perché proprio è il momento. Ho preparato la mia, come dire, non dico successione, ma ho preparato la Chiesa nella sua, per esempio, ho rimpolpato il conclave recentemente, quello che ha fatto a novembre, rialzando il numero dei cardinali elettori all'attuale livello di 117, quali saranno, perché ora sono un po' di più, ma alcuni andranno in pensione prima, quindi quando avranno più di 80 anni, e questo è quello che accadrà. Cioè, lui ha voluto mettere in sicurezza, diciamo così, il conclave e dire basta. Del resto, nel 2010, nel libro che aveva fatto, il libro intervista con il giornalista tedesco Peter Siewald, l'aveva annunciato in qualche modo, aveva detto il Papa può dare le dimissioni, ma l'aveva trattato più come, era stato trattato come una, come dichiarazione accademica, invece non lo era, stava dicendo certo, voglio uscire. C'è stata oggi una rivelazione, oggi pomeriggio il direttore dell'Osservatore Romano, Vian, nel suo editoriale di oggi, dice il Papa aveva già deciso di uscire dopo da il viaggio a Cuba, sì, lo ricordavamo. Un viaggio dove uscì veramente provato. Ecco, ma comunque quanto hanno pesato invece gli scandali o comunque le difficoltà della Chiesa in questo periodo? Pensiamo allo scandalo corruzione, pensiamo allo IOR, pensiamo alla pedofilia. Secondo te hanno contato o semplicemente il Papa ha capito che è un momento in cui ci deve essere un capo della Chiesa forte anche nel suo vigore fisico per affrontare tutto questo? Tutte delle cose, quelle che dicevi te, cioè c'è una caratteristica del governo, proprio del capo di Stato, di questi anni di Ratzinger, soprattutto dal 2009 in poi, quindi i primi due o tre, questo meno, è stato segnato da continue crisi, quelle che indicavi te, pedofilia, i Lefebvriani, il caso Boffo, possiamo dirne diverse, il caso IOR e arrivare fino ai VatiLeaks, quindi al maggiordomo. Questo ha segnato il fatto che non c'era un governo sotto efficace e non c'è un governo efficace quando il capo supremo non impone un governo efficace e quindi sotto ci si può fare la guerra abbastanza tranquillamente. Ora, per pararci proprio fuori dai denti, questo è successo negli ultimi due o tre anni. Certo. E il Papa lo disse in una famosissima omelia, disse ci si sbrana, citando San Paolo. Ora, un Papa che dice una cosa del genere, poi tutti quanti, diciamo così, i livelli più bassi tendono hanno sempre teso a sminuire quello che diceva il Papa. Questa è stata una cosa in qualche modo anche singolare, cioè, no, ma non intendeva dire quello, viene sempre frainteso. Ma non veniva frainteso per niente, lui diceva quello che sentiva, però allo stesso tempo non può un uomo da solo tirare avanti tutto quanto la baracca della Chiesa, che era una cosa, diciamo, difficile a portare avanti. Assolutamente, può essere interpretato anche come un gesto di grande modernità questo per il Papa e per la Chiesa in generale? Beh, certo, assolutamente, cioè, è un fatto straordinario, secondo me anche di grande umiltà, nel senso che in un discorso in latino pronunciato in una cerimonia tutto sommato minore nell'arco dell'anno come era quella di oggi, ha voluto significare che esco di scena senza clamori, non sono una rock star, disse una volta, e questo si è confermato oggi. La Chiesa ha bisogno di una guida forte, sicura e di mano ferma, proprio per tutte le crisi che sta attraversando, che ora è inutile elencare ma sono tantissime. Però è anche un'istituzione che esiste da 2000 anni, quindi è verosimile che lo voglia vivere per altrettanti, quindi ci serve una guida forte e la guida forte e lui ha avuto il coraggio di dire non posso esserlo io in questo momento. Grazie a Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore. Noi ci ritroviamo dopo il meteo, vi ricordo che oggi la zanzara slitta per questo speciale dopo il GR delle 19. Dopo il grande successo di gennaio, continua l'operazione sconto dipendenti su tutta la gamma Citroën. Citroën C3 5 porte, con clima, radio CD e 6 airbag da 9.490 euro. Scopri anche il nuovo motore benzina 3 cilindri 1.2 che consuma come un diesel. Solo fino al 28 febbraio. Pregasi prestare attenzione. Offresi sostegno concreto per la tua impresa. Milioni di euro in bando su www.industria.regione.lombardia.it. Affrettasi! Ogni giorno c'è una novità per te. Regione Lombardia. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione. Opportunità immediate, offresi! Passaparola sì! Il 19, 20 e 21 aprile il gruppo Idrocentro ti invita a Expo Torre 2013, la casa e il clima. Expo Torre 2013 è termoidraulica regionale, energie rinnovabili, solare termico, geotermia, pompe di calore, biomasse, bioedilizia e antisismica. E poi approfondimenti e convention su architettura e impiantistica. Expo Torre 2013, 19, 20 e 21 aprile a Torre San Giorgio Cuneo. Ingresso libero. Info 800 577 385 o su www.expotorre.it. Non posso presentarmi dai miei clienti con questo PC. Io ho comprato il notebook convertibile dell'XPS 12. Mi hanno rimborsato 150 euro permutando il mio vecchio PC non Dell. 150 euro? E dove? Vai su Dell.it, chiedi al tuo rivenditore di fiducia. Scegli un nuovo Dell con Microsoft Windows 8 e dando in permuta il tuo vecchio PC ottieni un rimborso fino a un massimo di 150 euro. Microsoft Windows 8. Elegante, semplice e veloce. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Ancora neve nelle prossime ore in molte zone del nord e sull'Appennino centrale. Domani migliora la situazione nelle regioni settentrionali e nel centro Italia, anche se nelle prime ore del giorno gli ultimi fiocchi cadranno ancora al nord. Il grosso della perturbazione si sposterà invece al sud, con piogge, rovesci e temporali per buona parte della giornata, accompagnati anche da venti intensi. Qualche goccia di pioggia è prevista anche sul Levante Ligure e sul Basso Lazio. Dal punto di vista delle temperature continuerà a fare molto freddo al nord, mentre si starà un po' meglio al centro-sud. Attenzione anche alla nebbia, che a fine giornata tornerà al nord, e per finire vi segnalo acqua alta eccezionale questa notte nella Laguna Veneta. Per maggiori dettagli consultate www.meteo.it. Con questo è tutto. Parenzo, ma lo sai che il Papa si è dimesso? Il Papa? Alfonso Papa? No, Papa Ratzinger. Papa Ratzinger? Sì, si è dimesso, vabbè, come al solito, sei in ritardo, stai dormendo. No, è uno sveglissimo, scusa. Sì, sì, si sente. Senti, solo per dirti che questa sera la sveglia non la metti alle 18.30, mettila alle 19.15, perché eccezionalmente andiamo in onda con la Zanzara alle 19.15, hai capito? Vabbè, 19.15 allora. Sì, a più tardi, ciao. Ciao. Il nuovo Office di Microsoft è arrivato ed è pronto per soddisfare le nuove esigenze del tuo business. Condividere, collaborare e comunicare sarà più semplice e sicuro. La tua produttività non si fermerà, ovunque tu sia e su qualsiasi dispositivo. Dal PC allo smartphone ai nuovi tablet. Scopri come acquistare la soluzione più adatta a te su nuovooffice.it. Dai Mario, facciamo pausa. Come lo vuoi il caffè? Espresso, nero, senza zucchero, ma in vetro per favore, miscela arabica o robusta di provenienza 70% colombiana e con i chicchi lavati prima della tostatura. Scegli la qualità più alta in circolazione con i veicoli commerciali Renault. A febbraio la gamma Renault e-Solution è tua con leasing 3,99, inclusi 5 anni di manutenzione e furto e incendio. Salvo approvazione Finrenault, fogli informativi in concessionaria. Ti aspettiamo sabato e domenica. Veicoli commerciali Renault, numeri 1 in Europa. No, mi dispiace. Un altro? No, non ci siamo. Oh, lei sì che va bene per il mio cliente. Per ogni candidato abbiamo un esperto. HiveJobs.com è il nuovo servizio di ricerca e selezione del personale, dove i colloqui sono svolti da veri professionisti che fanno lo stesso lavoro del candidato che cerchi. Veloce, economico, online. HIVE Jobs. HiveJobs.com. Gli speciali di Radio 24. Un gran papa, sì, un gran papa, y debe ser una decisión difícil. La verdad es que lo sentimos mucho porque creemos que es un muy buen papa. I fedeli a Piazza San Pietro un po' non sanno, un po' non capiscono, un po' comunque vogliono esprimere la loro vicinanza al Papa. Alessandra Schepisi, tu oggi pomeriggio sei stata sotto questa finestra, la finestra che siamo abituati a vedere ogni domenica aprirsi per far sentire le parole del Pontefice. Quali gli umori che hai raccolto? Sì, buonasera Piera. Soprattutto incredulità, stupore, senso di smarrimento, queste le reazioni prevalenti a Piazza San Pietro tra i romani e tanti turisti presenti, una piazza tra l'altro affollata sin da subito di telecamere, una notizia che c'è da dire alcune persone hanno appreso con sconcerto direttamente da noi giornalisti, qualcuno lì per lì addirittura ha pensato ad uno scherzo, poi con il passare delle ore è diventata di dominio pubblico con il vario, con il tantam su internet e sui telefonini. E prima di essere formati sin dall'inizio nella piazza erano i poliziotti in servizio che hanno ricevuto una nota della questura. Se non se la sentiva più ha fatto bene, hanno detto in molti, soprattutto uomini di chiesa, secondo i quali è stata una scelta coraggiosa, un atto di grande umiltà, altri invece non approvano, pensano che sotto ci sia qualcos'altro che l'opinione pubblica non conosce, addirittura un complotto del Vaticano. Di certo comunque non una scelta cuor leggero ma meditata, e molti ci chiedevano a noi giornalisti perché dunque tanti gli interrogativi, e poi inevitabile anche il paragone con Giovanni Paolo II, che invece ha portato avanti il suo pontificato fino alla fine nonostante la malattia. Ma direi allora di ascoltare queste voci che abbiamo raccolto. Non ho capito, cioè non ho capito che è successo. Poi perché? Come si fa a dimettersi, visto che è la prima volta? Non ho idea. Bisognerà capire forse le ragioni interiori di quest'uomo. La sua parola, lui ha parlato della sua età, un grandissimo compito sedere sul la sede petrina, dunque vediamo chi sarà il prossimo. Non lo so, non capisco. Piaciuto? No. Mi dispiace che non conosco. Oh, he's resigned. Oh, right. Didn't know anything about it. No, we don't know. We were just wondering what was happening here. So. We don't know. Stiamo recién enterandonos. Qual è stata la vostra prima reazione? Mi ha sorpreso negativamente, insomma, un papa che rinuncia alla sua missione per, non lo so, a meno che non ci siano delle cose che noi non conosciamo. Secondo me è più un motivo politico. Tutti gli scandali dalla IOR alla Banca Vaticana, a qualcosa ha colpito dentro le cerchie papali che ha dovuto obbligare il papa a lasciare il suo potere. Sì, personalmente sono rimasto molto colpito, nel senso che, cioè, oltre a non me l'aspettavo, ma credo anche però che sia anche un gesto profondamente umano il sapere anche riuscire ad ammettere magari un'impossibilità fisica, ma anche magari non credo spirituale, più fisica, di non riuscire più a portare avanti un incarico così importante. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi, che ha raccolto queste voci in Piazza San Pietro. Naturalmente moltissimi fedeli che oggi pomeriggio hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al Papa proprio in quel luogo simbolo della cristianità. Le condizioni di salute non c'entrano nulla, ci ha detto questa mattina lo storico Giulio Sapelli. Perché si è arrivati dunque a questa decisione di Ratzinger? Ascoltiamo. È un dibattito teologico in corso, in ristretti circoli teologici, soprattutto tedeschi e nordamericani. Sicuramente c'è la tragedia di un uomo che è stato colpito in questi ultimi anni da quelle che Rosbini avrebbe chiamato le piaghe della Chiesa, cioè la pedofilia, la corruzione, anche questa stessa questione dello IOR, no? che è una cosa che rivela fratture all'interno del Vaticano. E poi è tutta la cosa qualcosa di drammatico, perché se si pensa alla vita di Ratzinger, la vita di Ratzinger è sempre stata segnata dal conflitto con il fratello nemico, con Hans Küng, il grande teologo, no? Con cui ci fu la polemica dopo il 1968. E Küng ha sempre sostenuto che il Papa non solo può, ma dovrebbe dimettersi, perché quindi c'è una, voglio dire, c'è, in questo senso sembra che Ratzinger abbia dato ragione a Küng e alla teologia progressista, che, come lei sa, in Germania ha avuto un peso fortissimo, ha influenzato la stessa teologia della liberazione. Ecco, si parla nelle ultime ore di una decisione maturata a causa di condizioni di salute non... Questo lo escludo, no, assolutamente no. Questo lo escludo. Ratzinger è una persona tutta razionalità e tutta fede, quindi no, questa, voglio dire, non. Probabilmente c'è qualcuno nella curia che vuol dire questo per, se posso permettermi, per ammorbidire la tragicità di una decisione epocale, perché, voglio dire, i papi sono stati cacciati da degli imperatori, voglio dire, Napoleone ha fatto quello che ha fatto, no? con il Santo Padre, con il rappresentante di Cristo in terra, non dimentichiamo mai il punto di vista teologico. Certo, quindi lei esclude che sia stata dettata questa decisione da condizioni di salute, quindi direi che è offensivo sollevare questa cosa. E quindi perché Ratzinger ha preso questa decisione? C'è un dramma, è il dramma di un uomo davanti rosminianamente alle piaghe della Chiesa, insomma c'è qualche cosa di drammatico. Ecco, per far capire meglio a chi non seguisse queste cose proprio, diciamo, tutti i giorni, quali sarebbero le piaghe della Chiesa che lei... Beh, le piaghe della Chiesa sono la corruzione, in primo luogo la corruzione spirituale, e quando parlo di corruzione spirituale parlo anche di rifiuto del celibato, poi soprattutto la corruzione dei cardinali, no? Che è una cosa drammatica e molto pervasiva, gli scandali e la pedofilia, che poi è una sorta anche qui di rifiuto della cosa fondamentale che c'è nella vocazione religiosa, che è la vocazione alla castità. Ecco, mercoledì il Papa intanto concelebrerà le ceneri a San Pietro con i cardinali, dunque il prossimo appuntamento sarà questo per Papa Ratzinger. Katia Caramelli, a questo punto che cosa succede tecnicamente? Tecnicamente succede che il 28 febbraio alle 20 si apre la sede vacante, come si dice in gergo, cioè appunto un arco di tempo in cui non c'è nessuno a guidare il Vaticano. A quel punto si avvieranno tutte e neanche Benedetto XVI come reggente, perché non è previsto. No, Benedetto XVI si ritirerà a Castel Gandolfo per un periodo, si avvieranno tutte una serie di pratiche burocratiche, dopodiché un paio di settimane presumibilmente sarà indetto il nuovo conclave. A quel punto tutti i cardinali elettori saranno convocati a Roma. Ricordiamo che i cardinali non sono tutti elettori, perché gli elettori sono quelli che non hanno compiuto 80 anni, attualmente sono 117, ma bisognerà vedere quando questo conclave comincerà. Faccio un esempio su tutti: il cardinale Casper compirà 80 anni il 5 marzo, se il conclave dovesse cominciare successivamente il cardinale Casper non sarà più un elettore. Quindi si andrà a vedere alla data del conclave quanti saranno i cardinali elettori. Questi cardinali saranno convocati a Roma e saranno letteralmente messi sotto chiave, da cui il termine conclave, cioè non potranno uscire durante tutte i giorni delle votazioni. Avranno, ce lo ricordiamo, dopo la morte di Papa Wojtyla, ci ricordiamo questa lunga, insomma, seguimmo, no? Con grande attenzione, anche tu Katia lo facesti, te lo ricordi senz'altro. Il XVI è stata veloce, perché lì è stato eletto al terzo scrutinio, quindi un'elezione proprio lampo, cosa che probabilmente è possibile, presumibile ritenere non avvenga adesso, perché insomma la decisione di Benedetto XVI un po' ha spiazzato. Ai tempi di Wojtyła c'era stato tanto tempo per riflettere sulla sua successione, vista la lunga malattia del Papa. Certo, Benedetto XVI era anziano, quindi comunque si poteva immaginare un pontificato non lunghissimo, ma è presumibile che la riflessione che fu fatta ai tempi precedente la morte di Wojtyła in questo caso non sia stata fatta così approfonditamente. Certo, c'è stata un'accelerazione che non era prevista, e quindi adesso iniziano i lavori e le manovre probabilmente. Tra l'altro, certo, comincerà il tam-tam tra i cardinali, cominceranno a formarsi anche, certo, le famose correnti. Ecco, dicevi che Papa Benedetto XVI andrà a Castel Gandolfo il 28 dalle 20, no? Quando chiuderà il suo ministero. E poi andrà, una curiosità, andrà a Mater Ecclesiae, un monastero di clausura dentro le mura leonine, e una volta che appunto si sarà dimesso. In un primo momento sarà Castel Gandolfo, poi invece, che è la sede normalmente utilizzata come residenza estiva, certo, per poi tornare in Vaticano. Il monastero, una curiosità, fu costruito nell'Ottocento per proteggere la Basilica di San Pietro dall'attacco dei Saraceni, e stamattina Federico Lombardi, il portavoce Vaticano, ha chiarito i programmi di Benedetto XVI, ha detto che sì, sarà in questo monastero di clausura, ma ovviamente non sarà minimamente in clausura. Ma certo, e sicuramente tornerà alla sua passione principale, cioè lo studio, perché non dimentichiamoci che quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, allora cardinale, chiese più volte a Wojtyła di poter lasciare il suo incarico al compimento dei 75 anni e di ritirarsi a studiare, cosa che non solo non avvenne come prefetto, ma non avvenne neanche dopo, perché appunto fu chiamato al soglio pontificio. Adesso tornerà sicuramente a quel proposito iniziale. Grazie alla nostra Katia Caramelli. Ci fermiamo per Strade in diretta, poi l'ultima parte dello speciale. Strade in diretta. A nevicare fino in pianura su tutte le regioni del nord, traffico comunque abbastanza regolare anche per lo stop ai mezzi pesanti in vigore su tutto il nord Italia e anche tra Toscana, Marche e Umbria. Lungo l'autosole, per i controlli e il filtraggio dei mezzi verso nord, ci sono code di 1 chilometro all'altezza di Firenze Nord, per lo stesso motivo 2 chilometri di coda all'altezza di Bologna a Casalecchio sulla carreggiata sud. Raccomandiamo comunque sempre di mettersi in auto solo se strettamente necessario, fortemente sconsigliati i viaggi da sud verso nord. Qualche nevicata anche sull'Appennino centrale, piogge sparse a tratti intense tra Toscana e Lazio. Sul resto dei percorsi, traffico della sera attorno alle città. È tutto, Strada in diretta, torna tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. Chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare, e non so se Lui potrà perdonarmi. In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. In questo momento posso dire soltanto: pregate per me. La guida di cui avete bisogno non sono io. Non posso essere io. Le dimissioni del Papa arrivate oggi erano state, potremmo dire, in qualche modo profetizzate dal regista Nanni Moretti nel suo film Habemus Papam. Avete sentito in questo audio Michel Piccoli, l'attore che interpretava il pontefice nel 2011, che annunciava di non sentirsi all'altezza, girava le spalle e se ne andava lasciando una chiesa smarrita. Siamo in collegamento con Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa. Buonasera. Allora, a questo punto, Giacomo, si aprono le manovre, abbiamo detto, insomma, manovre che si sono, come dire, accelerate vista il precipitare della situazione. Quali sono, secondo te, i papabili a questo punto? Ma è evidente che questa volta potrebbe essere quella buona per avere un papa ex europeo per la prima volta in 2 millenni di storia ecclesiastica. L'osservatore romano ha evidenziato che si tratta di una decisione presa da molti mesi e quindi in qualche maniera il diritto consente a un pontefice di potersi dimettere. La storia ci ha abituato a pontefici che non si dimettono, però credo che il dato saliente possa essere quello di uno spostamento degli equilibri geopolitici della Chiesa verso il mondo extraeuropeo. Dopo le dimissioni del Papa subentreranno le diverse autorità della sede vacante, della preparazione conclave. Poi ovviamente, senza che ci siano vendiarie e cerimonie che di solito ci sono sempre per la sede vacante per le sedie del pontefice, si procederà alla conclave e come detto padre Lombardi probabilmente ci sarà il Papa nuovo per Pasqua. Intanto ovviamente nel corridoio del Vaticano corrono i nomi dei papabili, il più accreditato probabilmente è l'arcivescovo di Milano Angelo Scola, ma ci sono poi anche altre ipotesi come il delfino ratzingeriano Christoph Schembo, arcivescovo di Vienna, che rientra nel solco della tradizione segnata dal Benedetto XVI, ma porta anche una linea riformista nella Chiesa Cattolica. Poi altri nomi appunto extraeuropei potrebbero essere quello del filippino Tagle, dell'americano Dolan, del brasiliano Scherer, oppure nel caso appunto ci si indirizzi verso la Curia Romana, quello del ghanese Turso, ministro per gli affari sociali del Vaticano. E molti ricordano che già prima della sua elezione al Soglio di Pietro lo stesso Ratzinger disse nel 2004 una televisione tedesca che potevano essere maturi i tempi per un pontefice di colore. Certo, con una buona dose di cinismo anche i bookmakers inglesi oggi si sono scatenati e hanno dato proprio come vincente, come dire, il cardinale nigeriano, se così si può usare insomma questo termine in un ambito di tal genere, a Rinze. Appunto, è curioso, no, che già i bookmaker abbiano subito trovato riscontro, no? Siamo messi allerta su voci smentite. Poi c'è il ghanese Turkson, sì. E quindi il canadese Ouellet. Ouellet, sì, che è il ministro vaticano per i vescovi. Ecco, dicevamo invece per l'Italia Scola, ecco, oggi Scola ha parlato a Milano naturalmente, allora sentiamo insieme, Giacomo resta con noi proprio un minuto, sentiamo le parole di Scola. La accogliamo nella fede e nella serenità che questa decisione è fatta da un uomo di Dio, da un uomo dalla fede e dall'umiltà assolutamente straordinarie, dall'uomo che ci ha per tanti anni comunicato un'intelligenza profonda della fede, del senso del vivere, con un magistero assolutamente straordinario. E quindi questa decisione, per quanto ci riempia di sorpresa, ci può anche a prima vista un poco lasciare pieni di domanda, tuttavia, come egli ha detto, sarà per il bene della Chiesa. Ecco, queste le parole del cardinale Angelo Scola, Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa. Allora, dicevamo dei papabili, però volevo chiudere con te con questo messaggio. Insomma, che cosa lascia Ratzinger non solo con questo suo gesto, ma con tutto il suo ministero? Io lo sintetizzerei in due parole: purificazione, cioè lotta contro gli abusi sessuali e contro gli scandali finanziari nella Chiesa, e poi radice etica della crisi economica. È stato il primo, Benedetto XVI, a individuare nella crisi etica appunto la radice della recessione e della crisi economica che il mondo sta attraversando. Ecco, questo duplice fronte, quello interno della lotta agli abusi e quello esterno appunto della indicazione di una via etica per uscire dalla crisi, credo che saranno i due lasciti più forti di questo pontificato, il pontificato riformatore e il pontificato appunto della riforma interna della Chiesa. Ecco, probabilmente Ratzinger, insomma, dopo la sua elezione non pensava di dover affrontare due argomenti di questo genere. No, appunto, sicuramente non aspettava appunto di dover caratterizzare la sua azione come un'azione di vera e propria riforma della Chiesa. Lo ha fatto, ha trovato forti resistenze, ma è stato capace appunto di affrontare gli scandali, di arrivare fino in fondo appunto a far pulizia nella Chiesa, sia negli scandali finanziari che negli scandali che riguardano gli abusi sessuali della Chiesa. Ricordiamo la 60ina di vescovi che sono stati fatti dimettere dal Benedetto XVI per aver insabbiato gli abusi del clero. Ecco, ma secondo te c'è riuscito? Queste resistenze a cui facevi riferimento in qualche modo hanno frenato, e in qualche modo forse possono aver anche, se non determinato, comunque aver giocato un ruolo in questa sua decisione di oggi? Ma io credo che non abbia avuto un ruolo, ma sicuramente è un suo testamento spirituale. D'ora in poi nessuno potrà fingere di non sapere. Grazie a Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa. Lasciamo il suo lavoro, perché oggi, insomma, per chi si occupa di questi argomenti, naturalmente, insomma, da fare ne ha davvero. Noi chiudiamo invece con un altro vaticanista storico, Luigi Accattoli, intervenuto questa mattina a Radio 24. Forse bisognerà guardare fuori dall'Europa, ecco, si era talmente enfatizzata, diciamo, la questione europea. C'è persino un libro intitolato L'ultimo Papa europeo su Benedetto XVI. È immaginabile che ora si tenti di andare fuori l'America Latina, ma dico, questo è tutto prematuro. Bisogna sentire cosa dicono i cardinali, e nessuno ha potuto sentire nulla. È un fulmine, eccetera. La interpretazione del fatto invece credo che vada molto ricondotta alla psicologia dell'uomo. È un uomo di studio, un uomo molto riservato, un uomo non è nato per il comando, non è nato per il governo, ha subito in un certo senso l'elezione. Lui aspettava di andare in pensione da cardinale, più volte aveva chiesto al Papa precedente di lasciarlo tornare in Germania, si era comprato una casetta con il fratello e voleva tornare agli studi, completare alcuni libri che in gioventù non aveva completato, eccetera. Questo aspetto psicologico va tenuto presente, perché tutti gli altri papi che hanno avuto problemi di salute, di età e di salute negli ultimi tempi, si sono sempre lasciati condizionare dall'idea che non c'erano precedenti in epoca moderna. Il papa dimissionario è un intralcio, è un rischio per la Chiesa che vi siano due papi, e così nessuno si era mai dimesso. Lui ha superato, io credo meriti ammirazione, ha avuto il coraggio di sottrarsi a questo peso della tradizione e di scegliere liberamente, con una certa libertà, secondo coscienza, e questo credo che sia un grande acquisto. Così d'ora in poi tutti i papi che verranno saranno liberi anche di fermarsi. I prossimi papi si sentiranno dunque liberi di fermarsi. Con questa frase chiudiamo lo speciale di Radio 24 dedicato alla decisione oggi di Papa Ratzinger di lasciare il suo ministero. Grazie a Marco Lombardo in redazione, Pietro Lacorte in regia. Vi lascio prima al GR24, poi alla Zanzara, che oggi eccezionalmente, ve lo ricordo, andrà in onda dalle 19:15. Un saluto da Maria Piera Ceci. CNL Corporate Live. Bentrovati. Ecco la domanda di oggi. La mia azienda ha un fatturato in parte rivolto all'estero. La garanzia SACE copre anche investimenti domestici? Risponde Paolo Alberto De Angelis, vice direttore generale BNL, gruppo BNP Paribas. Il ruolo di SACE è quello di supportare l'export italiano ed il processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, anche facilitandone l'accesso al credito. Con questo obiettivo SACE rilascia delle garanzie anche a fronte di investimenti domestici, purché siano finalizzate a favorire la crescita nel business internazionale delle imprese stesse. BNL e SACE in particolare lavorano oggi su due convenzioni specifiche rivolte prevalentemente alle piccole e medie imprese. La prima riguarda il finanziamento degli investimenti, mentre la seconda è finalizzata al sostegno del capitale circolante, esigenza in questo momento particolarmente sentita dalle nostre imprese. Vai su radio24.it, clicca su BNL Corporate Life e fai la tua domanda. Quanto ci vuole per fare 100 chilometri? Meno di 3 euro! Nuova Volkswagen EcoApp a metano. Da oggi con consumi ed emissioni da record. Fino a 100 km con meno di 3 euro e solo 79 grammi di CO2 per chilometro. Le emissioni più basse della categoria. Con tutta la tecnologia e la qualità Volkswagen. In soli 3 metri e mezzo. Gamma app da 9.500 euro. Scoprila anche sabato e domenica. Offerta valida fino al 28 febbraio. Info su volkswagen.it. Vuoi far crescere la tua azienda? Investi nel talento di chi lavora con te. Il Fondo Forte finanzia i piani formativi delle imprese italiane in modo semplice e rapido, a costo zero, per arricchire le competenze dei lavoratori e adeguarle alle strategie di sviluppo della tua azienda. Mettiamo a disposizione delle imprese un'offerta ricca e articolata, con tempi certi di erogazione, meccanismi di finanziamento favorevoli e opportunità sempre attivabili. Utilizza finalmente il contributo che versi per legge aderendo a Forte. Cogli le nostre opportunità. Vai sul sito fondoforte.it e scrivici a info@fondoforte.it. Il mio nome è Alessandro Ragno, portiere, capitano della squadra di calcetto. Sulla maglia è il numero uno. Impedirò alla capolista di violare la mia rete e di rovinarmi le domeniche gratis. Ogni giorno un milione di persone sale in auto e si sente fiero. Ha scelto Directline, l'assicurazione che ai nuovi clienti, con la garanzia infortuni del conducente, offre tutte le domeniche gratis. Fai un preventivo su directline.it e scopri i dettagli dell'offerta. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Se sei un'azienda, e cerchi agenti, rappresentanti o venditori, vai su agenti.it. www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Di qualità. Rivoluzionaria. Senza rivali. Davvero sorprendente. Così la stampa europea descrive la tecnologia Ford EcoBoost. Un motore senza confronti per prestazioni e consumi. Ford Focus 1000 EcoBoost 100 cavalli. Con clima automatico e tecnologia Sync. A febbraio Wagon 5 porte a 15.950 euro. Anche sabato e domenica. A tutti gli ascoltatori, stiamo cercando un veicolo commerciale. È stato avvistato ieri a Milano, ma prima era stato a Napoli, a Londra, in Turchia, Russia. Se non vuoi trovarti in questa situazione, scegli Visiran e sai sempre in tempo reale dove sono e cosa fanno i tuoi mezzi. Controlli i consumi di carburante e comunichi con i tuoi autisti in tutto il mondo. Provalo subito gratis sul sito visiran.it. Visiran, se non vedi non sai, se non provi non capisci.